Allora, comunicazione multimediale 11 novembre 2010. Allora, prima o poi arriveremo al problema che fossimo in grado di valutare. Allora, in questo corso difficilmente troverete risposte, questo ve lo dico, forse ve l'ho detto l'altra volta, non ve lo ripeto, perché se voi vi aspettate risposte andate dai chiromanti o dai quelli che leggono le carte, non venite dalle persone intelligenti. Le persone intelligenti sono solo in grado di aiutarvi a formulare le domande giuste, poi le risposte ognuno se le trova per conto suo, io sinceramente. Questo non vuol dire che io, come dire, una parte dell'onestà del corso, come di ogni cosa che si dice, naturalmente sta nel non nascondere ciò che si pensa. Io non vi nasconderò mai ciò che penso, ma lo scopo del corso non è di farvi pensare come la penso io. Se trovo uno che mi argomenta l'esistenza di Dio in maniera convincente, gli do 30 lode pure a lui, cioè non è che sarà dura, ma sarà difficile, però non si sa mai. C'è un sacco di gente che ci carta nel mondo in questa cosa, quindi non si vede perché adesso, a parte gli scherzi, insomma. Quindi io non è che pretendo di dirvi, ah, le cose stanno così, così e così. Certo, io vi dirò come la penso io, come è ovvio. Però dal modo in cui io argomento, voi dovete, cioè la cosa che potete imparare di più in realtà è, insomma, voi imparate sempre, ognuno impara a modo suo, non c'è modo di è meglio, però insomma in qualche modo quello che probabilmente quello che imparerete più facilmente da me non saranno tanto le tesi, cioè le cose a cui si arriva, le dichiarazioni a cui io, le asserzioni a cui io sono arrivato e sulla cui verità io credo, entro certi limiti, sono disposto a scommettere qualcosina, qualche centesimo di euro. Ma più, molto probabilmente sarà più utile per voi esaminare, riflettere ed eventualmente criticare o trovare delle cose alternative al percorso che mi ha portato sino a lì. E io questo percorso cercherò di non nascondervelo mai, cioè cercherò sempre di corredare ogni cosa che vi dico dal percorso. Sarà il mio naturalmente, perché non posso non, come dire, non ne conosco bene nessun altro. Cioè, già conosco male me stesso, figuriamoci gli altri. Cioè, però, insomma, come dire, con me stesso convivo ormai da troppi anni, insomma, da un numero consistente di anni. Quindi. Allora, lo scopo di questa prima parte del corso è quello di cercare di capire quali sono i dispositivi di funzionamento del linguaggio. Di capire se è vero che possiamo definire il linguaggio umano prevalentemente come uno strumento di comunicazione o no. La mia risposta è no, però cercheremo di capire se è così. E comunque di mettere in relazione il linguaggio umano con altri dispositivi sia di comunicazione che di espressione usati dall'uomo. E in primo luogo l'immagine. Se il corso si chiama comunicazione multimediale, evidentemente uno dei nessi sarà il nesso fondamentale, poi ce ne sono tanti altri, ma insomma quello tra parola e immagine sarà quello che ci interessa di più, e poi quello su cui è stato letto di più, su cui è stato pensato di più o su cui io mi sto arroverando di più negli ultimi anni. Quindi. Da un certo punto di vista siete ovviamente, questo però lo sapevate già dall'inizio, che siete un po', sarete, come dire, prigionieri della mia griglia, perché se no. Però potete evadere, cioè la porta della cella non è chiusa a chiave. Cioè, se se avete voglia potete scappare quando volete. Scappare non vuol dire che non venite più a lezione, vuol dire che vuol dire che cercate di maturare un punto di vista vostro e anche un approccio vostro. Allora, partiamo da questa questione della doppia articolazione. Cioè, no, partiamo da una considerazione un po' più generale oggi. Fra le tante teorie del linguaggio che ci sono, sull'origine del linguaggio che ci sono, ve ne vorrei parlarvi oggi brevemente di una, che ovviamente non è affatto una teoria dell'origine del linguaggio, che è una costruzione letteraria di uno scrittore che si chiamava William Seward Burroughs, uno dei più grandi scrittori del Novecento, il cui libro più famoso è forse ricordate, si chiama Next Lunch, Il pasto nudo, uscito nel 1959 per la prima volta in Francia in una casa editrice di pornografia che si chiamava Olympia Press. Questo signore cosa? Hanno fatto che film? Da Naked Lunch venne tratto un film di David Cronenberg che si chiama Naked Lunch, però in realtà non è tratto da Naked Lunch, ma tra dei pezzi di Naked Lunch, dei pezzi di Exterminator, dei pezzi della biografia di William Burroughs. Sì, cioè più improntato sul personaggio, sul personaggio Burroughs, che esatto. Weller fa un ottimo Burroughs, secondo me. Il film io stravedo per Cronenberg, se non lo sapete lo imparate adesso, però Naked Lunch è uno dei film che mi sembrano meno riusciti di Cronenberg, perché era il più difficile, era difficilissimo fare quello, è molto difficile mettere in scena. Comunque, fra le tante cose che disse Burroughs, è famoso per una affermazione, la quale venne, come adesso la nostra amica ci ricordava che del film di Cronenberg, io vi parlerò invece di una canzone di Laurie Anderson, il cui titolo è Language is a Virus. Language is a Virus è esattamente una citazione da William Burroughs. Language is a Virus fa parte di quale album di Laurie Anderson? Fa parte di Big Science, se non mi ricordo male, la stessa in cui c'è Oh Superman. Però potrei sbagliarmi. Language is a virus, cioè il linguaggio è un virus. In questa, ripeto, non è una tesi scientifica, io non ve la spaccio per quello, naturalmente non è una metafora. Però in questa, cioè, Burroughs ne parlò diverse volte, ma se non mi ricordo male, il libro in cui è espressa più chiaramente è La rivoluzione elettronica, se non vado errato. Titolo fuorviante, perché non parla propriamente, però comunque. Che è un testo, sarà dei primi anni 80, se non vado errato, però non lo ricordo esattamente. Dunque, insomma, la tesi è che il linguaggio non sia, che sia una specie di virus, fra l'altro extra diciamo terrestre, quindi galattico, di origine galattica. Gran parte dei libri di William Burroughs potrebbero essere classificati come fantascienza, è una fantascienza molto particolare, nulla a che fare con la fantascienza commerciale, eccetera, però per esempio la trilogia di Nova è pura e semplice fantascienza, Nova Express, The Ticket That Exploded, il terzo, non mi ricordo. Mi schiamo il terzo, non espresso, il biglietto che esplodo, e ce ne sono tre. Quello è proprio fantascienza pura, ma anche Naked Lunch potrebbe essere letto come un libro quasi di fantascienza. Comunque, allora, dice Burroughs a un certo punto che c'era questo virus che girava per le insomma galassie, che è arrivato sulla Terra e che ha preso possesso degli esseri umani. E quindi noi crediamo di aver inventato il linguaggio, dice Barro, in realtà non abbiamo inventato nulla, e quindi noi crediamo di parlare, ma in realtà c'è questo virus che ci possiede e che ci fa fare tutte queste performance. Qualcuno l'ha già fatto, credo, non in modo molto approfondito, forse varrebbe la pena di farlo meglio, ma forse qualcuno ha già messo in relazione questa affermazione di Burroughs, che ha colpito, ripeto, così tanto Laurie Anderson da averne fatto una canzone nello stesso album di Laurie Anderson dei primi anni Ottanta. Compare, c'è addirittura la voce di William Burroughs che recita una strofetta di un'altra canzone, non di Language of Burroughs. Language of Burroughs canta solo lei, Laurie Anderson, con un bellissimo coletto, la Language of Burroughs. Così. Allora, mettere in relazione questa affermazione di virus, language virus, cioè linguaggio di un virus, con un'altra affermazione di un altro personaggio diversissimo e distantissimo da William Burroughs, che è Jacques Lacan. Jacques Lacan un francese, e tutti morti, non c'è nessuno vivo, quindi state tranquilli, non so parlare male. Jacques Lacan. Jacques Lacan è uno dei più importanti esponenti, chiamiamolo, del neofreudismo, cioè è un freudiano, certo, perché uno comunque si era visto. Psicanalista, però molto amato da vari filosofi, eccetera. Io lo trovo indigesto da vari punti di vista, però questa cosa, però diciamo, Jacques Lacan a varie riprese dice qualcosa diverso, insomma, che ricorda un po' alcune delle cose che dice Burroughs, c'è questa cosa che dice Burroughs in particolare sul, diciamo, linguaggio. Una delle affermazioni di Lacan più significative da questo punto di vista è: non siamo noi che parliamo, è il linguaggio che ci parla. C'est le langage qui nous parle. È il linguaggio che ci parla. È simile a quello che diceva Burroughs, insomma, cioè noi non siamo noi che controlliamo, diciamo, il linguaggio, è il linguaggio che ci parla. Che cosa significano? Che cosa possiamo, come possiamo commentare queste due differenti affermazioni? Sono entrambe, a modo loro, ripeto, poi non c'è nessuna connessione, non credo che Burroughs abbia mai letto Lacan in vita sua, stava molto meglio a fumarsi delle gran cose, a farsi del peyote e anche dell'eroina, piuttosto che leggere Lacan. Però, ripeto, insomma, c'è una certa similitudine. Che cosa ci ricorda? Come potremmo commentare queste due affermazioni? Potremmo commentarle così: sono entrambe un modo di riconoscere l'estrema complessità del linguaggio umano. Senza con questo da parte mia avere la minima presunzione di staccare l'uomo dal regno animale, cioè dalla sua base biologica, però è vero che non c'è nessun altro sistema conosciuto fra le specie animali sulla Terra non c'è nessun altro sistema comunicativo, espressivo, eccetera, che sia così tanto ricco, che abbia così tanta capacità di sovracchiare, di andare oltre la dimensione apparentemente puramente biologica degli esseri umani. La complessità del linguaggio umano è tale che giustifica delle affermazioni di questo tipo, anche nella loro totale infondatezza scientifica, come l'affermazione di Burroughs che il linguaggio sia un virus. Da un certo punto di vista il linguaggio si comporta effettivamente così. E se ci pensate bene, ognuno di noi, almeno una volta o qualche volta, a me capita spessissimo, ma ripeto, se ci pensate bene forse sarà capitato a ciascuno di voi, di fare l'esperienza delle parole che ci escono di bocca senza che noi vogliamo. Se poi miseria, cazzo, no? In modo la lingua, avrei dovuto stare zitto, non avrei dovuto. Certo, voi in genere tutti noi mettiamo in relazione questa eccedenza del linguaggio sul pensiero o sull'intenzione, la mettiamo in relazione con altri, già sono perché è il mio istinto, è perché sono fatto così, è il mio carattere, parlo troppo precipitosamente, non rifletto abbastanza prima di parlare, tutte robe di questo tipo, possono essere più o meno vere. Però ognuno di noi nella vita quindi ha già fatto l'esperienza del linguaggio che lo parla e non di lui e non di lui o di lei che parla il linguaggio. Quindi non è così strano, insomma. Sotto questa concezione, la teoria memetica potrebbe... Va bene, poi ce ne sarà anche per la teoria memetica, ce n'ho per tutti. La teoria memetica è una teoria interessante, ma io la trovo viziata da un difetto di fondo, cioè quello di voler fare troppo parallelismo con il meme, con il gene, scusa. Io ripeto che non mi considero antropocentrico e considero l'uomo come un animale tra gli altri, però è vero che ha alcuni modi di funzionare che per noi sono biologici, va bene, sono biologici, ma è una biologia molto particolare, come il riccio gli aculei che noi non abbiamo, così noi abbiamo questo particolare linguaggio che altri animali non hanno, che è sempre di origine biologica, insomma. Però non è detto che abbia gli stessi. Poi io devo dire che ho dei dubbi anche sul concetto di gene dal punto di vista, nel senso che trovo che la storiellina della doppia elica e delle quattro basi sia stata da un certo punto di vista, sopravvalutata, insomma, o comunque che si cerchi di farle dire delle cose, o di farle fare delle cose che non può fare. Allora, il mio dubbio verso la teoria del meme è questo, che già funziona poco, la teoria del gene intesa come onnipotenza del codice, genetico, figurati nel campo culturale, quindi trovare. Però, detto questo, può anche darsi che alcuni tratti particolari, e comunque la tua, trovo giusta la tua osservazione che in qualche maniera le teorie contemporanee del cosiddetto meme siano, per chi non sa cos'è il meme, se lo guarda su Wikipedia e trova più o meno, meglio se guarda la voce inglese, ma anche quella italiana, più o meno sufficiente meme. Per poter capire meme, sì, è una teoria un po' bizzarra. No, magari viene fuori qualcosa. No, meme, se c'è anche meme, meme, c'è anche meme, oppure memetica. Comunque meme, basta meme perché gli inglesi ovviamente dicono meme, non dicono meme, noi diciamo meme, ma gli inglesi dicono gene, non dicono gene, e noi diciamo gene, quindi nel senso come stiamo parlando italiano ci possiamo permettere queste. Partiamo da questo punto e però cerchiamo di vedere subito dopo Vi preannuncio che ogni cosa che vi dirò, che vi suggerirò sulla questione del linguaggio, ogni cosa o quasi ogni cosa, insomma molte delle cose che vi dirò sulla questione del linguaggio, sono, come dire, saranno piene di contraddizioni, cioè è sempre contraddittorio, ma è contraddittorio a partire dal dato di base. E cioè che, come dire, l'utilizzo del linguaggio, il fatto che noi siamo esseri umani e quindi utilizziamo il linguaggio per costruire ogni griglia simbolica con la quale entriamo in contatto col mondo e valutiamo il mondo, ogni volta che cerchiamo di riflettere sul linguaggio siamo invischiati in una contraddizione, cioè che la nostra metateoria coincide con la nostra teoria. È chiaro quello che ho detto o no? No. No. Ogni volta che noi facciamo una serie di asserzioni su un qualunque insieme di oggetti, possiamo dire di aver costruito una teoria, se noi ne siamo consapevoli o no. Il disprezzo, non magari generalizzatissimo, ma insomma di cui spesso è circondata la teoria nel modo di pensare degli esseri umani, cosa che spesso, diciamo, questo ovviamente succede quando siamo dentro un modo di pensare fortemente nutrito di anticulturalismo, come ce n'è in tutto, ci sono molte culture che sono anticulturali, in realtà sono culture pure loro. E quindi vi dirò che ci sono molte teorie antiteoriche. In realtà anche chi esibisce il suo disprezzo o la sua sottovalutazione per la teoria, fa una teoria. Ha una teoria particolare che lui non vuole riconoscere essere teoria, perché è un insieme di asserzioni più o meno legate tra loro, più o meno fondate, più o meno che costituiscono più o meno un sistema. Attraverso le quali costruisce delle asserzioni su certi oggetti, ok? Se ora io e voi ci mettiamo a parlare, diciamo, di qualcosa che ci accomuna più o meno tutti nella esperienza, cioè della scuola italiana o del concetto di scuola in genere, eccetera, eccetera, tutto quello che io e voi insieme, chiacchierando, discutendo, potremmo dire, presuppone una teoria sulla scuola. Tutti noi abbiamo una teoria sulla scuola, cioè abbiamo un insieme di convinzioni, di beliefs, su quello che la scuola è, su quello che dovrebbe essere, sul perché, su qual è la sua storia, sul come è nata, sul come funziona oggi bene o male, su come potrebbe funzionare bene, male, meglio, peggio domani. Questa è una teoria. Ogni teoria, guarda un po', viene espressa attraverso un linguaggio. La gran parte delle teorie che noi costruiamo e utilizziamo, ripeto, implicite o esplicite, noi usiamo teorie anche quando pensiamo di non usarle, eh? Anche quando la nostra mamma ci rimprovera perché abbiamo fumato una sigaretta, o perché abbiamo un fidanzato che non le piace, o perché non abbiamo fidanzati, o per una serie di altre cose, è la mamma, che è una delle persone al mondo che probabilmente è la più aliena, a meno che non sia una professoressa universitaria, dalle diciamo, teorie. Anche la nostra mamma ha le teorie e ci rimprovera perché ha una teoria sui figli, ha una teoria sul mondo e ha un insieme di aspettative. Le robe dovrebbero andare così e mio figlio non dovrebbe fumare per ABCD e mia figlia dovrebbe avere come fidanzato il nipote di Berlusconi e non quel disgraziatissimo punk con pieno di piercing e di altre schifezze, eccetera, eccetera. E sono tutte teorie queste, se non teorie, cioè, anche se uno non lo sa. Queste teorie sono espresse in un linguaggio. La grandissima parte delle teorie sono espresse in un linguaggio naturale, come ovvio. Però ci possono essere alcune teorie un po' più specializzate che sono espresse in altri linguaggi, in un linguaggio che non è naturale. Conoscete una vi viene in mente una teoria che possa essere espressa in un linguaggio che non è quello naturale? Una teoria matematica. Brava. Per esempio la matematica. La matematica ha un linguaggio, fatto di numeri, simboli, segni di addizione, segni di operazione, che non è quello naturale. Poi si traduce in quello naturale, io posso parlare, però se faccio una teoria delle equazioni, A x quadro più bx più c uguale a 0, non è un linguaggio naturale. Cioè, difficile se voi andate a chiedere informazioni a uno, dice così, a x quadro più bx più c uguale a 0, corretto all'inizio, giustamente che questo chiami l'ambulanza, cioè qua c'è un matto, se portatelo via perché non sta bene. Quindi ogni teoria ha un linguaggio, la gran parte delle nostre teorie hanno un linguaggio naturale, però ci sono altre teorie specializzate che hanno linguaggi specializzati. Ora, supponiamo che io stia discutendo con mamma, la quale mi rimprovera perché io sono una giovane studentessa di Brera e avete un fidanzato che alla mamma non piace perché ha 10 piercing al naso, tatuaggi ovunque, una cresta di capelli, cioè, non ce n'è più così, però sono più o meno qualcuno che potrebbe essere. No. E voi argomentate, voi fanciulle, argomentate con mamma che questo ragazzo non è così cattivo come sembra, che mi vuole tanto bene, che però è pieno di altre qualità che tu non puoi, bla bla bla, e a un certo punto può darsi benissimo che da questa discussione così sul... arriviate anche a delle considerazioni più generali sul ma perché mi stai a spaccare la minchia così tanto, perché non ti fai i cazzi tuoi. Allora questa cosa, anche detta in modo così brutale e sicuramente non degno di una signorina bennata, quale tutti voi sicuramente siete, ma può darsi che vi scappi anche a voi se la mamma vi rompe praticamente con gli occhi, questo è embrionalmente l'inizio di un discorso che non riguarda il vostro ragazzo o i rapporti sessuali fra adolescenti e giovani, ma riguarda la teoria della vostra mamma. Può darsi che voi implicitamente abbiate una critica alla teoria, dice, mamma, mi hai spaccato le mie tradizioni, non ce la faccio più, non dovresti essere così, dovresti farti i fatti tuoi, e a poco potreste costruire un discorso che non riguarda direttamente i rapporti sessuali o non sessuali tra i giovani, ma riguarda la teoria della vostra mamma. Facendo questo, voi avete, sia pure embrionalmente, costruito qualcosa che potete chiamare metateoria, perché una teoria, mentre la teoria, diciamo, ha come oggetto o dei fatti o delle relazioni, cioè qualche cosa che avviene al di fuori del mondo del linguaggio, no? Fatti, relazioni, cose che c'è nel mondo, questa è una teoria, teoria è un fatto linguistico, perché sono asserzioni, sono frasi mentali o esplicitate, le quali però riguardano delle cose che non sono linguaggio. Quindi al primo livello la teoria è uno strumento linguistico per parlare, vogliamo usare il termine, per parlare del mondo, ok? Del mondo o di certi aspetti del mondo, no? Al secondo livello, una teoria che non abbia come oggetto il mondo, ma che abbia come oggetto un'altra teoria, sarà un pochino diversa dalla teoria di partenza, se no sarebbero la stessa cosa. Quindi la potremmo chiamare meta è una parola latina, è una parola greca che vuol dire al di là, metafisica, metatafisica, ciò che sta al di là della fisica. Il libro di Aristotele è chiamato così perché veniva dopo il libro chiamato fisica. Allora, come lo chiamiamo questo libro? Quello che viene dopo la fisica. Poi metafisica, da quel momento poi ha voluto arrivare a altre cose, ma l'origine del termine è quella. Allora, voi avete costruito una metateoria. Se una teoria viene costruita usando un linguaggio, una metateoria come verrà costruita? Usando un metalinguaggio, giusto? Se è una metateoria sarà un metalinguaggio. In effetti di questo problema della teoria linguaggio, metateoria, metalinguaggio, si è posto effettivamente, non è una roba che mi sono inventato io, si pose effettivamente tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, esattamente nel campo della matematica e più specificamente nel campo della logica. Nel corso dell'Ottocento la logica, che inizialmente era una parte della filosofia, e c'è un libro di Aristotele che si chiama Logica e che praticamente è stato il testo base della logica per 2400 anni. Durante l'Ottocento, a partire da un signore che si chiamava George Bull e poi da quelli che vennero dopo, diciamo, di lui, ci fu un cambiamento nella logica e la logica si scoprì che poteva essere formalizzata in maniera matematica. Si potevano usare dei simboli matematici e poteva essere. Quindi nacque un'altra specie di logica che però presto si mangiò tutta la logica tradizionale, che si chiamò logica formale o logica matematica, formal logic o mathematical logic, la quale quindi diventò rapidamente un pezzo della matematica. Rapidamente si capì pure che sembrava che questa logica avesse in qualche maniera una specie di potere fondativo per la matematica, cioè che tutta la matematica si potesse in qualche maniera ridurre alla logica. Da questo punto di vista viene chiamato logicismo, non a caso. E i due rappresentanti più importanti di questa linea di pensiero furono il tedesco Gottlob Frege e l'inglese, più giovane di lui, Bertrand Russell, tutti e due morti, anche Bertrand Russell che era il più giovane tra i due, ma parliamo della fine dell'Ottocento, dei primi anni del Novecento, quindi hanno diritto a essere morti tutti quanti. Questo problema, questo punto di vista, diciamo, logicismo, non era l'unico punto di vista che c'era, ma a che cosa serviva? Serviva per risolvere il problema della fondazione della matematica. Perché ce ne frega noi della fondazione? Cioè, perché bisogna fondare la matematica? Se ci pensate bene, la matematica ha un certo bisogno di essere fondata. Perché? Perché la matematica ha la pretesa di essere un discorso razionale, cioè, no, tutto dimostrato, cioè, potenza della ragione, chi potrebbe, neanche Berlusconi potrebbe dire di essere in disaccordo con il teorema di Pitagora. Forse si riuscirebbe certamente se sapesse che il teorema di Pitagora potrebbe essere usato come una prova contro di lui per un qualunque processo, certamente negherebbe, e Ghedini soprattutto gli farebbe una... i suoi avvocati gli farebbero una... gli costruirebbero una piccola... ma insomma, diciamo. Tutte le volte che voi avete una catena di ragionamenti, come è fatto un teorema matematico che forma... ha una forma... Chi sa un po' di linguaggi di programmazione capisce benissimo, allora se allora c'è una ipotesi, c'è una tesi. nella logica matematica si scrive così, perché di solito la precedenza è il simbolo del se allora. Se A, se c'è l'ipotesi A, allora seguo l'ipotesi B. Quindi voi dite, abbiamo dimostrato l'ipotesi B. Beh, fino a un certo punto dimostrato. L'ipotesi B, la tesi B dipende dalla ipotesi A. Si potrà dimostrare l'ipotesi A. Ci sarà un altro teorema che dice se A1, allora A. Vabbè, quindi A è dimostrato, perché è questo A1. Ci sarà un altro teorema che dice se A2, allora A. Avete già idea di dove stiamo arrivando? Insomma, c'è il rischio di quello che i diciamo, latini chiamavano il regressus ad infinitum. Vado indietro, vado indietro, cazzo, a un certo punto mi devo fermare. I cristiani, Aristotele, eccetera, eccetera, hanno una soluzione molto semplice per questa cosa. Si va indietro, a un certo punto si arriva a un personaggio che ha creato il mondo, o che lo ha, o che gli ha dato l'ordine, e dice basta, siamo a posto. Quando sono arrivati a Dio, siamo a posto. Purtroppo, diciamo, Dio ha un bellissimo concetto, una bellissima figura, ma un grave difetto che, come dire, non può essere dimostrato, e tutti i tentativi di dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio sono tutti clamorosamente naufragati, con buona pace di Sant'Anselmo che pensò di avere trovato l'escamotage più, perché c'è sempre qualche fallacia logica al fronte. Per colui che crede non gliene frega un sacrosanto accidente di questo, perché dice io ci credo al di là che uno me lo dimostri. Ma se uno, mettiamo che uno abbia il pallino di voler dimostrare tutto, gentile veramente, però gente così ce n'è, qualcuno c'è. E questa persona non si accontenterà di questo e quindi dirà vabbè, ma dov'è che si fonda Dio? Si fonda su qualcosa di extra logico, di extra razionale, di extra, come dire, argomentativo. Questo non è una roba così strana, ormai è ovvio che c'è sempre una qualche parentesi. Non date retta a chi vi dice che gli atei sono quelli che vogliono dimostrare la non esistenza di Dio. Nessun ateo intelligente potrebbe dire mai una bestialità del genere. È ovvio che è impossibile dimostrare che Dio non esiste, esattamente come è impossibile dimostrare che Dio esiste. Quindi l'ateo semplicemente si rifiuterà, come dire, siccome siccome l'asserzione sulla esistenza di Dio non può avere fondamenti razionali, semplicemente l'ateo è uno che sceglie comportarsi o di fare le cose come se Dio non esistesse, perché non c'è nessuna ragione nel senso di potenza razionale, di catena argomentativa che possa dimostrare l'esistenza di Dio, così come certamente non ce n'è nessuna che possa dimostrare la non esistenza, è ovvio, quindi diciamo diverso è il discorso sul fatto che il pastore tedesco ci potrebbe accusare, e infatti ci accusa spesso a noi di essere relativisti. Io sono orgoglioso ovviamente di essere un relativista, no, però mi rendo conto che uno che non lo è possa dirmi tu sei uno stronzo perché sei relativista. Io penso di avere molto più argomenti per dire che sono stronzi gli universalisti, però non è che si può, le robe non è che si risolvono a colpi di quando sei stronzo tu, quando sono stronzo io, insomma, questo è ovvio. Però diciamo, da un punto di vista della catena argomentativa. Allora, diciamo, torniamo a noi. Il matematico risolve questa questione del regresso all'infinito in un modo meno, come dire, meno, insomma, meno pretenzioso del come filosofo, diciamo, credente, ma più o meno altrettanto efficace, anche se obiettivamente, come dire, portatore di un certo punto di vista relativista, e cioè dice in questa catena A1, A2, tutti i puntini a n, mi fermo a un certo a k. Mi fermo a una certa una o più. Prendo una o più asserzioni che dico queste non le dimostro. Non le dimostro perché? Perché ho bisogno di qualche cosa che non dimostro, che assumo come punto di partenza. E questi a k, k vuol dire un numero a caso, insomma, che la teoria si chiama assiomi o postulati. Il primo sistema matematico costruito in questo modo non è di oggi, non è di ieri, non è dell'altro ieri, è risale esattamente a 2300 anni fa e si chiama Elementi, autore un certo signore chiamato Euclide. Gli elementi di Euclide, opera in cui si espone la geometria nota ai tempi e quindi probabilmente costruita anche nei secoli, come dire, precedenti. Platone viene un paio di secoli prima di Euclide, ma conosce già e dimostra anche alcuni, diciamo, teoremi nei suoi dialoghi, tra cui famosissimo nel Menone la dimostrazione del teorema di Pitagora, che è una delle dimostrazioni che poi si troveranno due secoli dopo negli elementi di, diciamo, Euclide. Euclide espone la geometria di Euclide, in realtà comprende buona parte di quella che noi chiamiamo geometria piana, più tutta una serie di cose che invece noi classifichiamo sotto il termine di aritmetica, ma lui per una serie di, diciamo, motivi legge i numeri e vede i numeri come se fossero segmentini, insomma. Questo è quello che si chiama sistema ipotetico deduttivo. Non l'ha chiamato così Euclide. Un sistema ipotetico deduttivo è un sistema di affermazioni razionali in cui ogni affermazione viene ricavata, dedotta da una o più affermazioni precedenti, utilizzando le regole della logica, quelle esposte per esempio nell'opera di Aristotele, che viene poco dopo Platone, insomma, che era uno dei suoi allievi, quindi c'è alla fine del IV secolo, l'inizio del III a.C. E quindi è un insieme di asserzioni che derivano concatenate, quindi che vengono ricavate deduttivamente usando le regole della deduzione l'una dall'altra a partire da un certo numero di affermazioni, parliamo sempre di linguaggio, da un certo numero di affermazioni che vengono assunte, che vengono prese come punti di partenza, alle quali non si richiede una dimostrazione. Questi sono gli assiomi o postulati. Aristotele, Euclide e quindi qualcun altro prima, diciamo, di lui, ma diciamo diamo il merito ad Euclide perché è la prima opera complessiva che ci è arrivata sulla matematica greca. Euclide costruisce tutto il suo sistema, quindi dimostra centinaia di teoremi partendo da cinque soli assiomi, da cinque soli postulati, da cinque sole affermazioni primitive che non dimostra. In realtà qua c'è un equivoco, perché questa concezione che vi ho dato ora, che vi ho spiegato adesso del sistema ipotetico deduttivo, obiettivamente è abbastanza relativistica. Secondo questa concezione, la scelta dei punti di partenza, cioè delle affermazioni che non vengono dimostrate, è arbitraria. Non c'è nessuna logica che la regoli, tranne quella, volendo, di riuscire a minimizzare il numero degli assiomi. È certo che se io devo dimostrare 500 proposizioni e assumo come assiomi 499 e con tutti quelli dimostro un solo teorema, il mio sistema ipotetico deduttivo è un po' debole, è un po' debolino, perché ho usato un cannone per sparare a un passero, insomma, ho preso 499 assiomi per dimostrare un, diciamo, teorema. Se ne prendo metà, 250 e come dire, dimostro che l'articolo 50 va già un po' meglio, però forse potrei sforzarmi e fare un po' meglio. Se ne ho 7, 8, 10, cazzo, vabbè, buono, dice, con 10 assiomi ho come dire, dimostrato 490 come dire, teoremi. Se riesco a farcela con 5, meglio ancora, insomma. Quindi è stato dimostrato da pochi anni, da pochi diciamo decenni, che non è possibile scendere sotto i 5 assiomi nella geometria euclidea per dimostrare quello che si deve dimostrare. Quindi che effettivamente Euclide ha fatto un gran bel lavoro, perché ha diciamo trovato, non lui da solo evidentemente, ma insomma è probabilmente quella scuola lì, è riuscita a individuare il numero altamente minimo di asserzioni primitive necessarie per dimostrare tutte le altre. Ma così la pensiamo noi, che veniamo dopo l'illuminismo, che quindi siamo ormai, alcuni di noi almeno, vittime di questa terribile malattia contemporanea che si chiama relativismo. Gli antichi, che non erano proprio così, non erano tanto relativisti come noi, e tanto meno quelli della scuola di Platone, e anche per certi versi di Aristotele, che erano invece terribilmente universalisti e quindi volevano, avevano bisogno di qualche altro criterio per giustificare il fatto che ci fossero questi, diciamo, assiomi. E così, giocando su una circostanza reale, ma come dire, filosoficamente non tanto, diciamo, rilevante, e cioè giocando sul fatto che la geometria di Euclide era una buona descrizione del modo in cui noi vediamo il mondo, dissero, chiaro perché Euclide ha preso quelli come assiomi, perché sono verità di per sé evidenti, di per sé evidenti. Questo equivoco si trova esposto nella maniera più esplicita nella Repubblica di Platone, quindi 2 secoli prima di Euclide, 2 secoli e mezzo prima di, diciamo, Euclide, in cui a un certo punto Platone, la Repubblica è un dialogo lunghissimo, molto ampio, in cui si parla della migliore costituzione possibile per una Repubblica, però insieme con questo, che è il tema principale, c'è una lunga digressione nei libri sesto e settimo di ordine più epistemologico e ontologico, cioè c'è una teoria della conoscenza, lì per esempio c'è esposto il mito della caverna, in quell'opera lì lo si espone, e un punto di vista ontologico, cioè una delle tante una delle tante spiegazioni, delle tante espressioni di Platone della sua teoria delle idee, cioè sul fatto che l'unica cosa che esiste non è il mondo sensibile ma è il mondo delle idee. Bene, in questa digressione del libro settimo, a un certo punto Platone utilizza la matematica, e quindi la geometria e la aritmetica come erano note allora, insomma, che però erano già note bene, insomma, per un lungo tempo sono state quelle che abbiamo studiato a scuola, quelle di Euclide, insomma. Ripeto che Euclide doveva ancora venire, però c'era già ai tempi di Platone questa matematica. E dice, quindi, la matematica è un buon sistema razionale, se lui spiega bene come la potenza della mente, della ragione, la mente, la ragione per Platone è il nous. Il nous, ogni volta che trovate l'aggettivo noetico in giro, noetico non è una parolaccia e non c'entra niente con l'etica, non c'entra niente con il comportamento, è qualche cosa che ha a che fare con la nous, cioè con la potenza, è quello che noi chiamiamo ragione. Bene, dice allora, dice Platone della Repubblica, la matematica è un buon sistema per spiegare il modo che ha di funzionare, di procedere la ragione, la nostra, però c'ha un difetto, si basa su delle ipotesi, è vero, si basa su delle ipotesi. Le prime ipotesi sono le asserzioni di partenza della, diciamo, teoria, cioè gli assiomi o i postulati. dice in realtà, poi spiega Platone, cioè in realtà bisogna fare il vero filosofo, lo sapete, dice Platone, fa un salto, riesce a superare, come dire, l'aspetto della razionalità matematica, che dice Platone è molto importante, ma è limitata perché è ipotetica, quindi dipende da delle ipotesi, e quando è che si arriva al superamento di questa cosa di Platone? Quando si arriva, e qui c'è veramente la sua posizione, diciamo, idealista, no? Nel senso proprio letterale del termine, che quello che conta sono le idee e non le cose sensibili. Quando il filosofo arriva a contemplare direttamente le idee, senza bisogno di questo escamotage di fare delle, diciamo, ipotesi, e arriva, e poi nella Repubblica si espone la teoria che c'è una idea che è meglio, che è più importante delle altre, che è quella del bene, che è il buono. To agaton. Il buono. Che è cosa che non c'è in altri dialoghi di Platone, quindi non si può dire che questa sia la teoria platonica. Nella Repubblica viene posta così. Ma la Repubblica è molto chiara, dice, guarda, c'è questo modo, quindi la conoscenza, allora, diciamo, la conoscenza diretta del buono, questo contatto diretto che a un certo punto la mente, la nous, la mente, diciamo, umana, realizza con questa dimensione generale, è una conoscenza che si realizza senza la necessità di queste ipotesi. Lui ha addirittura, il termine che usa è a un certo punto dice la mente, la ragione, la nous, che è stata capace di elevarsi a livello delle idee, di contemplare l'agaton e di averne conoscenza, a questo punto è in grado di togliere le ipotesi. E questa è una cosa su cui gli studiosi di Platone hanno sempre discusso e stanno discutendo ancora in questi anni, che cosa vuol dire togliere le ipotesi. Vuol dire, ipotesi, e dice può fare una catabasi, cioè una discesa, perché finora diciamo, questa era una anabasi, cioè una salita, io sono salito dal mondo normale fino al mondo delle idee, poi faccio la catabasi. Facendo la catabasi, cioè quando il filosofo ha contemplato il buono, sa che cos'è il fondamento, e quindi ridiscende tutti i gradi che ha percorso prima, a questo punto dice, è a questo livello che dice si possono togliere le ipotesi. Togliere le ipotesi che cosa può significare? Può significare riscrivere la matematica, però lui non è che l'ha mai fatto vedere come si può fare davvero, sarebbe stato difficile perché obiettivamente non c'è altro modo di fare con buona pace di Platone, perché insomma questa contemplazione del bello è qualcosa, del buono è qualcosa che, vabbè, insomma, sa, diciamo, contento lui che l'ha contemplato, noi poveri mortali che non riusciamo mai a contemplare il buono nella sua essenza, ma cerchiamo faticosamente di costruire delle cose che a noi paiono buone, poi possiamo sbagliarci certamente nella nostra vita, insomma, nella nostra minuscola vita privata e pubblica, collettiva, eccetera eccetera, non possiamo certamente godere di questa bellissima dimensione. Comunque, se fosse vero, allora che cosa vuol dire togliere le ipotesi? Vuol dire costruire un'altra matematica, sembra molto difficile, vorrà dire semplicemente che una volta giunti al livello più alto della conoscenza, anche i passi che abbiamo fatto prima hanno una giustificazione diversa. Quindi, in qualche maniera, diciamo, l'ipotesi, l'esistenza di ipotesi che è stata necessaria nella fase anabatica di ascensione, dal mondo sensibile, dal mondo normale, dal mondo materiale, al mondo delle idee. Una volta che siamo arrivati davvero al mondo delle idee, la nostra anima, la nostra psiche, la nostra nous, la nostra mente contempla le idee davvero, a quel punto tutto quello che c'era prima non ci serve più nel modo in cui l'abbiamo, cioè, come dire, possiamo contemplarlo da un altro punto di vista. Detto in altri termini, abbiamo usato una scala per arrivare in paradiso, una volta che siamo in paradiso possiamo buttarla via la scala, perché stiamo bene lì e non ce ne frega più niente. Quindi, diciamo, le ipotesi matematiche della matematica sarebbero da questo punto di vista simili a una scala di cui ci siamo serviti per salire e che buttiamo via una volta che non abbiamo. Però adesso questo ve l'ho detto così tanto per suggerirvi quale complessità di, diciamo, discorso ci possa essere dietro a questa cosa, ma per stare più terra terra noi e per stare più terra terra come era più terra terra entro certi limiti, il diciamo dibattito tra i matematici alla fine dell'Ottocento, ovviamente la matematica nel corso dell'Ottocento fra, diciamo, dal Settecento in poi aveva fatto più strada in due secoli di modernità che nei 2500 precedenti. Praticamente la matematica dal grande sforzo greco ed diciamo ellenistico dell'ultima fase della, diciamo, civiltà greca, terzo, secondo secolo avanti Cristo, da quel momento in poi non aveva più realmente progredito. I pochi progressi che c'erano stati erano stati perché si era preso contatto con altre matematiche diverse, in particolare quella indiana che c'era giunta attraverso gli arabi. Per esempio si era costruita l'algebra, che è una parte della matematica che in Euclide non c'è. Era un progresso, ma da un punto di vista concettuale non era la vera rivoluzione nella matematica si ha tra la fine del 600 e i primi del 700 con Leibniz e Newton, che inventano letteralmente quasi dal nulla quella che si chiamerà poi analisi matematica o, diciamo, calcolo differenziale. Dal calcolo differenziale nel 700 e nell'800 le conoscenze matematiche aumentano in maniera esponenziale, in maniera che voi non avete neanche idea di come essere, e ancora di più aumentano nel 700. Questo è per spiegare perché si pone allora un problema di fondamenti. All'epoca dei greci non era pensabile di porsi il problema dei fondamenti della matematica, c'era un fondamento razionale, cioè in realtà funziona così perché la ragione funziona così. La matematica coincideva praticamente con la geometria piana, di quella solida si sapeva poco, e con l'aritmetica elementare, una diciamo, teoria dei numeri semplice, che poi si è scoperto dopo quanti problemi nascondevano anche solo queste due, diciamo, discipline così semplici. Ma alla fine dell'Ottocento i matematici si trovano di fronte a un edificio, a una quantità di conoscenze. La geometria ha generato un campo totalmente nuovo chiamato topologia. L'analisi matematica classica, quella di appunto Leibniz e quella di D'Alembert del 700, di Bernoulli, dell'analisi classica ha già avuto delle superfettazioni, ha generato, come un pollone, come un ramo, si è ramificata, c'è la teoria variazionale, le equazioni differenziali, le derivate parziali c'erano già prima, l'analisi funzionale in cui, insomma, erano robe complicatissime. Quindi, cioè, qual è il fondamento di questa, come dire, matematica? Voi trovate spesso tutte le volte che si parla di crisi dei fondamenti, non solo in campo matematico, anche in campo filosofico, in qualsiasi campo della, diciamo, conoscenza, una delle figure che viene, che è più, insomma, carina, più divertente, perché già, è una di queste, diciamo, storielle che raccontava il barone di Munchausen, no? Sapete tutti chi è il barone. Tutti sappiamo chi è il barone di Munchausen, no, c'è qualcuno che non lo sa, devo dire chi è. Allora, il barone di Munchausen è il personaggio, il protagonista di un divertentissimo libro di tale Raspe del Settecento tedesco, in cui si racconta Munchausen, come Monaco senza la rimet, Munchausen. In cui si racconta la storia del più gigantesco, del più fantasmagorico, del più pirotecnico cacciaballe che sia mai esistito sulla faccia della terra. È uno che racconta una serie di bugie, chiaramente bugie. È come chi ha visto il film, come si chiama quello di... accidenti, quello in cui si parla del pesce che ha pescato. Ah, il pesce. Okay. Più o meno questa storia qua, si è pescato un pesce più grosso, no? E poi il pesce aumenta ogni volta che si racconta, diventa, fino a che diventa grosso, grosso come sta. Allora, questo caso, le cose più cose per usare sono quelle di quando è riuscito a sfuggire all'assedio di una cosa balzando a cavallo di una palla di cannone che era per lui, gli balza a cavallo, bisogna poter scappare, insomma, evidentemente. Oppure di quando arriva in Russia quella sera e si cioè, fa freddo di notte, insomma, comunque c'è sulla neve, lui si sdraia sulla neve, lega il cavallo a un palo che sporge dal diciamo, terreno e si colica e la mattina si sveglia e si trova in un paesino dove prima non c'era nessun paesino e sente il suo cavallo che ti penetrisce, alza gli occhi e il suo cavallo sta appeso per la cavezza alla cima del campanile, perché quando lui è arrivato c'è tutto il paese era tutto coperto di neve durante la prima mattinata, la neve, e quelle sono le fare. Una fra le storie più inverosimili, ma che è stata molto utile poi dal punto di vista filosofico del romanzo di Munchausen, quando il romanzo di Munchausen racconta di essersi trovato in una palude, in una specie di sabbie mobili, no? E dice, non sapevo, sabbie mobili erano intorno a me, mi stringevano, non sapevo, andavo sempre più giù, non sapevo come potevo togliere, ma alla fine ecco un'idea miracolosa, gigantesca, di ragionare come tutti i nobili aveva i capelli lunghi raccolti in una treccia dietro, in una codino, dice, a un certo punto, che stupido, non ho trovato prima, mi sono preso per il codino e mi sono tirato fuori da quelle sabbie mobili da solo. Gli inglesi hanno un modo di dire che noi non abbiamo e che è, insomma, siamo legati a questa idea, e si dice by his bootstraps, cioè farlo tirandosi con le stringhe degli stivali. In qualche maniera che è simile a questo modo di dire. Il barone di Munchausen che si tira su da solo dalla diciamo palude è stato usato spessissimo dai matematici e dai filosofi alla fine dell'Ottocento per criticare le teorie autofondative. O spesso coloro che erano nemici, gli avversari delle ipotesi di fondazione della matematica, le criticavano spesso con questo argomento, dicendo, ma no, dice, tu credi di avere dimostrato la cofondatezza, in realtà sei stato sempre interno al tuo stesso discorso, quindi, e non ti puoi tirare su dalla palude tirandoti per il codino, non puoi, devi fare ricorso a qualcosa di esterno. I più attenti tra voi ricorderanno che tutta questa lunga storia partiva dall'idea teoria, metateoria, linguaggio, metalinguaggio, giusto? Allora, il problema è che per discutere o per fondare, per dare una fondazione a una qualunque teoria, ci sarebbe probabilmente bisogno di una metateoria. Capite bene che a questo punto però il discorso di una teoria è passibile ha lo stesso rischio di regresso all'infinito che aveva il discorso. Perché va bene, se una metateoria mi serve per fondare questa teoria, che cosa fonderà questa metateoria? E così via. Per pochi anni, agli inizi del Novecento, diciamo tra il 1890 e il 1902, grosso modo, la comunità dei matematici e dei logici pensò di avere risolto il problema della fondazione della matematica, fondando la matematica sulla logica, o sulla teoria degli insiemi, che in qualche maniera potrebbe essere pensata come l'equivalente della logica. Si potrebbe pensare che la teoria degli insiemi e la logica sono equivalenti, di fatto. Quindi la logica, come dire, formale è effettivamente un pezzo della matematica. Perché? Perché questo signore Gottlob Frege Un matematico e filosofo tedesco che si era dedicato, è uno dei giganti della logica, insomma, mondiale, che si era dedicato a questa all'opera di costruire una intera teoria dei fondamenti della, come dire, matematica, era già noto dai matematici che in realtà tutta la matematica moderna, anche l'analisi diciamo il calcolo differenziale, per esempio, era possibile fondarlo sull'aritmetica, cioè non era altro che uno sviluppo particolare della aritmetica. Lo strumento di questa autofondazione interna della matematica era stata la teoria degli insiemi, che si era inventato un personaggio a lungo considerato pazzo, sempre un tedesco dell'Ottocento, che si chiama Georg Cantor, un ebreo tedesco. Cantor era tutt'altro che pazzo, e invece fu geniale, perché fu il primo che riuscì a trovare un modo di costruire una aritmetica degli infiniti, cioè a trattare degli insiemi infiniti come se fossero dei numeri finiti, 1, 2, 3, 4, con qualche accorgimento. Cioè, qualunque studente del primo anno di matematica, queste cose ci arriva dopo poche settimane. Ma all'epoca, infatti, venne preso per pazzo e diceva: no, non è possibile. Cantor fu il fondatore della teoria degli insiemi, in tedesco Mengenlehre, la teoria degli insiemi. Con la teoria degli insiemi era facile dimostrare che la matematica, anche le nuove teorie matematiche, erano tutte connesse tra loro, e che a un certo punto si arrivava appunto alla teoria degli insiemi. Ma su cosa si poteva fondare la teoria degli insiemi? La teoria degli insiemi, già bene, si fonda sulla logica. Il programma di Frege era questo: fondare la matematica sulla logica, fondare la aritmetica sulla logica. Una volta che hai fondato l'aritmetica, che hai dimostrato che l'aritmetica non è altro che una conseguenza della logica, hai fondato tutta la matematica. E quindi nel 1902 il signor Gottlob Frege pubblica un'opera, 1902. Pubblica un'opera molto importante, si chiama Grundlagen der Mathematik. Grundlagen der Mathematik. Sì. Grund, terreno, lagen, giacere, Grundlagen, i fondamenti. Le fondamenta della matematica, 1902, in cui dispiega questo enorme certo, bisognava prendere gli insiemi, trattare questi concetti, erano un po' difficili, ma lui lo fa con grande eleganza. È un'opera difficilina, non ve la, come dire, metterei in mano a voi pensando che ci potete capire, cioè, ci potremmo usarla per scopi. Io non l'ho mai letta tutta, insomma, ho guardato le prime 50 pagine tradotte in italiano, ci ho penato sopra un po', io mi sono legato in logica, quindi insomma non sono totalmente digiuno da questi argomenti, per cui, però è stato difficile. Quindi, però diciamo era tutto a posto, sembrava a posto, lui era tutto contento, eccetera. C'era un giovanotto inglese all'epoca, che aveva, il giovanotto aveva 25-26 anni, che condivideva il progetto di Frege, era un logicista, diciamo, pure lui, si chiamava Bertrand Russell. Bertrand Russell legge, bravo, alla sua età leggeva benissimo anche il tedesco, non soltanto l'inglese, legge il Grundlagen, tutto contento, gli piacciono, però scrive una lettera al signor Frege, gli dice che il signor Frege fa un sacco di complimenti, bellissimo, bla bla bla, Dice, guardi, però che a un certo punto, a pagina tal dei tali, dice, ho trovato una cosa che mi lascia perplesso e che forse però... Adesso è un po' difficile che vi spieghi che cosa aveva, diciamo, trovato, ma vi posso spiegare benissimo, come dire, l'equivalente. Lui dice, se lei qui a un certo punto di questo suo libro, lei ipotizza che si possa parlare di tutti gli insiemi che hanno come elementi altri insiemi senza prendere particolari precauzioni. Allora guardi che se non si prendono precauzioni succede così e così. E gli dimostra che c'è nell'opera di Frege un paradosso che equivale a tanti altri paradossi che erano già stati scoperti negli anni, come dire, precedenti, ma lui dice guarda che c'è insito, c'è quel che è, era uno dei più importanti paradossi logici. Spesso si parla di questo come se fosse equivalente al famoso paradosso del mentitore, che invece non è propriamente equivalente a questo, è più equivalente al paradosso del barbiere. Il paradosso del mentitore è semplice, no, ma sono semplici, si raccontano, questi ci potete arrivare tutti, non occorre avere una laurea in logica per capire. Il paradosso del mentitore è noto, infatti si chiama spesso il paradosso di Epimenide il Cretese. Il paradosso di Epimenide consiste in questo, si parte da una asserzione. No, il paradosso di Epimenide è questo qua che Bertrand trova. È quello che a volte trovate che è così, ma non è così, però ve lo dico lo stesso perché è divertente, quindi okay, poi allora dopo vi dico l'altro. Il paradosso di Epimenide è questo, tutti i cretesi mentono, punto. Okay. Epimenide è cretese, punto. Epimenide dice, due punti, io mento. Dice la verità o mente? Rispondete. Ovviamente, quindi... Cosa? Sempre mente. Quindi dice, quindi, però io mento, dice la verità. Se mente, dice la verità. Allora vuol dire che non mente. Se dice la verità, dice che mente. Quindi no, mente. E però se dice che mente e dice sono cretese, forse non è cretese. Quindi non mente. Senza mettere in discussione i primi due cosi, dimmi se mente o se dice la verità. Sta dicendo la verità. Non puoi dire né l'uno né l'altro, l'affermazione è contraddittoria. Dalla ipotesi che lui menta, consegue che dice la verità. E dall'ipotesi che dice la verità, consegue che mente. Quindi... da A segue non A, quindi è una affermazione, una paradosso. Esatto, è un paradosso, però è un paradosso grave perché mina alla base ogni sistema. Se in un sistema logico è possibile ricavare un paradosso di questo tipo, vuol dire che il sistema logico è inconsistente perché consente di ricavare sia una proposizione sia il suo contrario. I sistemi logici hanno da essere, come si dice, coerenti, cioè non deve essere possibile neanche per una affermazione che, cioè se nella, come dire, geometria euclidea fosse possibile dimostrare sia il teorema Pitagora sia il suo contrario, tutta la geometria andrebbe a culo, è chiaro, perché non sarebbe più. Allora, in realtà c'è un modo per ovviare in parte a questo paradosso. Il modo è espresso in un indovinello che si può fare, che vi faccio così già che siete qua, che così va il cervello ancora più in fumo di quello che ci avete adesso, sulla stessa base, sulla stessa cosa di quella, si può fare l'indovinello, cioè c'è un modo per, non per scoprire se quello mente o no, ma per ricavare anche da una asserzione menzognera una conseguenza che sappiamo sicuramente che è vera. La storiella è questa, questa volta la storiella parla con un antropologo, ma c'è una piccola ipotesi in più. Allora c'è un'isola che non è Creta, è un'altra isola, i cui abitanti vivono in due diverse tribù. Una tribù è quella dei veritieri e quella dei mentitori. I veritieri dicono sempre la verità, i mentitori mentono sempre, ma ahimè non c'è modo per il povero antropologo di scoprire a occhio se un indigeno sia mentitore o sia veritiero, perché sono uguali, hanno la pelle uguale, trattano nello stesso modo, cioè proprio non si può sapere. Allora a un certo punto c'è l'antropologo che cammina per l'isola e si è perso, ha perso la strada, cazzo, non sa cosa deve fare, arriva a un bivio e incontra, c'è un indigeno lì, e quindi cosa accidenti, dice adesso io gli chiedo qual è la strada giusta, quello mi dice questa o l'altra, dice se però io non so se è un meritiere, se fosse della tribù dei veritieri dovrei invocare la strada, ma se è dell'alcuni intonieri devo invocare l'altra, come faccio a sapere? E qualche disgraziato, qualche stronzo come quello che ha scritto questo vinello, impone all'antropologo di fargli una sola domanda, perché se potesse fare due domande allora sarebbe facile, dice no, puoi fargli una sola domanda, esiste una domanda attraverso la quale l'antropologo è sicuro di prendere la strada sbagliata, la strada giusta? Se qualcuno lo sa già può fare bella figura, fare finta di averlo scoperto adesso, e neanche tu la sai, non l'ho mai fatta negli anni scorsi, però. Se tu chiedi all'indigeno qual è la strada prendere per lui, dimmi? Tramite una negazione, fai tramite? Una negazione. La negazione è un po' poco. Cioè dire, oddio, adesso non ci sto riflettendo. Quale strada non dovrei prendere? Ci deve essere, ovviamente deve usare un operatore logico. La negazione è troppo, ci sarà anche la negazione, ma ci deve essere un'altra cosa. Gli deve fare una domanda in forma di teorema in qualche modo. Ci deve essere un se allora. Se usa un se allora ce la fa. Se non dovessi prendere questa strada. Magari usiamo il congiuntivo perché non è se tu fossi un mentitore, che strada mi indicheresti? E poi prendi l'altra. Sei sicuro? Se tu gli fai la domanda, se tu fossi un mentitore, che strada mi indicheresti? Sei sicuro? Se è un mentitore ti dirà la strada sbagliata perché lui è davvero un mentitore, quindi mente, quindi dirà la strada sbagliata. Se lui è invece un veritiero, tu lo hai messo nelle condizioni, non dovendo mentire, di fare come lui vuole, quindi sicuramente la strada buona è l'altra. Questo indovinello dimostra che il paradosso di Epimenide non è così tragico come potrebbe sembrare, cioè c'è un modo per aggirarlo, come dire, c'è un modo per bonificare la palude, c'è una pietruzza sulla quale Münchhausen può salire e senza tirarsi per il codino uscire dalla palude. Non c'è invece per un altro genere di paradossi che sono noti come per esempio, c'è una struttura logica dietro, poi si rivestono con delle stovielline per fare in modo che si possano raccontare, perché se no, se io vi dico, se prendete la classe degli A che sono contemporaneamente A e non A, cioè, giustamente lo dice qualcuno di voi, potrebbe venire la tentazione di chiamare voi l'ambulanza per portare via. Allora, per questo vi dico, l'hanno fatta apposta. La storia è molto semplice. Il barbiere del villaggio rade tutti coloro che non si radano da soli. Il barbiere del villaggio si rade o no? No. Come no? Se non si rade da solo? Non può radersi. Si rade? Lui perché è un barbiere. Il barbiere rade tutti coloro che non si radono da soli, quindi se non si rade da solo si deve radere lui, e quindi se non si rade da solo si rade da solo. Allora si rade da solo, ma se si rade da solo non si rade da solo. Siete nella stessa situazione, però molto più complicata. Questa volta la storiellina dell'esploratore non c'è. Questo è il paradosso che Bertrand Russell indica a Gottlob Frege nella sua lettera del 1902, appena è uscito il Grundlagen der Mathematik. Frege è così onesto da rispondergli, grazie. Penso che lei abbia ragione, effettivamente è un bel puttanario, non ci avevo pensato, forse non usa esattamente questi termini qua, il Grundlagen der Mathematik, okay, uscito nel 1902, era volume primo. Erster Band. Nel 1905 esce il volume secondo, perché a quel punto dice, beh, era già tutto pronto, devo farlo uscire, ma candidamente e onestamente Frege ammette che il programma logicista è naufragato. E perché è naufragato? Adesso cerchiamo di, diciamo, capire. È naufragato perché per la stessa ragione per la quale c'è questo paradosso del barbiere. E diciamo, la ragione è che si utilizzano strumenti troppo potenti, troppo, concetti troppo grossi. Il punto debole di tutta la teoria degli insiemi e quindi della logica formale è l'estensione dei concetti. Allora, non pensate che tutto questo non serva per... adesso io poi dopo, nelle prossime lezioni, vi dirò delle cose da cui vi sembrerà che tutto quello che vi ho detto adesso sia aria fritta. Entro certi limiti lo è, certo. Se no, non... però gli strumenti logici hanno una loro... non possono essere, come dire, estesi troppo più in là di dove devono essere estesi. Per esempio il passaggio da queste macchinette alla nostra mente deve essere fatto con grande cautela. Però all'interno di queste macchinette qua sono queste le logiche che funzionano, non sono queste, quindi è bene anche un po' conoscerle, diciamo. La cosa importante è non abusarne, esattamente come non bisogna abusare, come non si doveva, cioè abusare, come comunque i matematici hanno imparato a non fare, della potenza. Allora, in logica si distingue una estensione e una intensione dei concetti. Notate che questi concetti sono stati messi a punto esattamente da quel signor Frege che ha scritto il Grundlagen der Mathematik, quindi siamo sempre, quindi come dire, è un po', diciamo, come dire, ironico che dei concetti messi a punto degli strumenti messi a punto da lui si siano rivelati in realtà la causa della debolezza del progetto in cui lui comunque credeva. Diciamo, estensione e intensione dei predicati, no, diciamo estensione e intensione dei concetti, o denotazione. È bene che impariamo anche un po' di queste terminologie e connotazione dei predicati. Dunque, che rapporto c'è tra i predicati e i concetti? I predicati sono, diciamo, strumenti, sono sì, diciamo, dispositivi logico-linguistici. I predicati sono gli aggettivi, sono le qualità, sono le proprietà che io associo a certi soggetti. Dico, Berlusconi è uno stronzo. No, no, comunque un predicato, io ho predicato la qualità stronzo del soggetto Berlusconi, no? Dico, Caronia rompe i coglioni, rompitore i coglioni è una qualità, è un predicato che qualcuno potrebbe predicare, dire del soggetto Caronia. Il Monte Bianco è alto 3.000 e rotti metri, non lo so, 3.000 e rotti metri è un predicato, cioè sono tutte qualità. Ogni volta che voi fate una normalissima proposizione soggetto predicato con il verbo essere, ma ogni proposizione la potete pensare ridotta in forma logica a una posizione anche quando non c'è il verbo essere. Il viandante cammina, il viandante è camminante, non è un bellissimo italiano, però dal punto di vista concettuale ogni asserzione di tipo singolare, o di tipo singolare o di tipo, diciamo, generale. Tutte le zebre hanno le strisce. Tutte le zebre, in questo caso fate una affermazione universale su tutta una classe di animali che sono le zebre, dite hanno proprietà, hanno la pelle fatta a strisce. Oppure dite alcuni leoni sono feroci, o alcuni orsi mangiano il miele, non siete sicuri che tutti lo facciano. Oppure dite non tutti i cigni sono bianchi, se ne avete visto qualcuno che non è bianco. Oppure dite, costruire quattro tipi di affermazioni, diciamo, generali, che sono le quattro affermazioni che fanno parte dei sillogismi di Aristotele. Tutti gli A sono B, nessun A è B, qualche A è B, qualche A non è B. Combinando insieme le particelle tutti o qualcuno, che si chiamano quantificatori in logica, con la negazione è, non è, è oppure no, voi avete quattro tipi che sono poi, cioè, Aristotele le dispose in un quadrato, insomma, adesso una cosa lunga. Allora, perché stavo dicendo questo? Ah, certo. Allora, sia che noi parliamo da un punto di vista della logica, e quindi parliamo dei predicati, che, no, diciamo, la logica, se la logica ha diversi livelli, ma i due più importanti sono la logica delle preposizioni, in cui io analizzo il rapporto tra le preposizioni senza andare a vedere cosa c'è nelle preposizioni. Quando prima vi ho fatto l'esempio in un teorema, se A allora B, se A allora B è l'esempio di un tipo di logica delle proposizioni, cioè i connettivi logici sono delle particelle che connettono tra loro delle proposizioni già date. Invece questa analisi che stiamo facendo adesso con i quantificatori, tutti, alcuni, eccetera, eccetera, è un'analisi che si chiama logica dei predicati, perché vuol dire che io analizzo la proposizione, vedo come fate, solo certe proposizioni di tipo particolare servono per questa cosa, evidentemente. Bene, allora, in realtà c'è una, diciamo, questo è il livello della logica. Questo è il livello della teoria degli insiemi, però sono facilmente collegabili. Perché? Perché ogni predicato, cioè ogni aggettivo linguistico, stronzo, a strisce, che rompe i coglioni, bianco, nero, buono, cattivo, alto 3428 metri, che scorre con una velocità di 320 km al secondo, qualsiasi cosa voi potete dire determina, è un concetto, il concetto di buono, il concetto di stronzo, il concetto di alto 3000 erotti metri, il concetto di che scorre con una velocità, sono tutti concetti, giusto? E quindi ogni volta che voi utilizzate un predicato a livello logico, nella struttura logica di una frase, individuate in qualche maniera un concetto, diciamo, nella fondamentale. Ora, che cosa, come lo potete definire un concetto? Ecco perché, per esempio, il concetto di buono, il concetto espresso dall'aggettivo buono applicato, diciamo, agli esseri umani. Se uno vi chiede di definire, dice, ma cosa vuol dire buono per te? Voi che cosa fate? Come potete procedere? Con sinonimi. Con dei sinonimi e può andare bene, ma... Come volete dire? Tornano un po' a questo. Però... Spiegandogli dei comportamenti. Vedete che già avete già nelle tre cose che avete detto già sono emerse due diverse strategie. Primo, spiegandovi il concetto. Guarda, allora dice, mi sforzo, è un po' come dire sinonimi, però è un po' come dire meglio, perché utilizzi qualche altro concetto che speri di avere già definito o che potrai definire successivamente, insomma, c'è sempre dietro le vostre spalle, ogni volta che ragionate, c'è sempre l'incubo del regresso all'infinito, c'è sempre, no? Diciamo, come dire, ineliminabile, non si può farne a meno. Però, allora, si può spiegare a uno che cos'è una persona buona dicendo è una persona che si comporta così e così, per esempio, se c'è una signorina che l'hanno fermata per un furto, eccetera, eccetera, si può telefonare alla cosa, dirgli che è la nipote di Mubarak, vabbè, scherzo, naturalmente, però, diciamo, se è buono è uno che vede un mendicante e gli dà, diciamo, dell'elemosina, per esempio, per unire, cattivissimo, perché non dà mai dell'elemosina ai mendicanti, e, insomma, c'è un modo di definire il concetto, c'è una serie di proprietà, è sempre linguistica, sempre, fate sempre un'operazione linguistica, no? Che in questo modo dite che voi date la connotazione di un concetto, cioè voi connotate il predicato buono, lo state, quando lo spiegate, quando lo volete definire in termini di altre proprietà, voi state connotando quel certo predicato, quel certo termine. Se invece, come qualcuno suggeriva, volete fare degli esempi e dite guarda buono, guarda, pensa, Madre Teresa di Calcutta, poi non so quali altri esempi di buoni ci sono perché è un po' dura trovarne in questo, però supponiamo che uno dice San Martino che si taglia, non sappiamo manco se sia esistito San Martino, ma facciamo, non facciamo sempre, insomma, sempre il pignolo su tutto, ogni tanto cercate di accettare che qualche santo possa essere esistito in qualche remoto passato. Allora, Madre di Calcutta, San Martino, qualche altro buono che trovate, non lo so, almeno qualche personaggio di romanzi o di film, cioè, se avete visto Miracolo a Milano di Travattini, film molto vecchio, mi rendo conto, ma che forse per TV è usato, sapete che diceva Totò il buono, non è Totò De Curti, non è Totò il buono, e quello di proprio scala il buono, quindi è lui. Insomma, avete fatto una serie di esempi. Se diciamo tendenzialmente potete pensare di fare un elenco di tutte le persone che sono buone al mondo, voi avete definito, voi avete spiegato al vostro interlocutore che cos'è il buono senza avergli detto, senza avergli spiegato diciamo il concetto di buono, ma elencandogli l'elenco di tutti i soggetti a cui conviene quel predicato buono. In questo modo voi dite che l'avete denotato. Ora, per fare prima, diciamo, ogni predicato o ogni concetto ha una estensione, che è l'insieme degli individui possibili che godono di quella proprietà, cioè che sono in relazione con quel predicato o che sono descrivibili con quel concetto. Questo è il punto di vista estensionale, estensione, no? L'insieme dei buoni è fatto così. Comprende questa e quest'altra persona. La denotazione è, quindi si denota l'estensione. Ciò che viene denotato in un concetto, in un predicato, è l'estensione, cioè l'insieme delle persone che hanno, di cui è predicabile quel certo concetto, di cui si può dire quella certa parolina, quel certo aggettivo. Prevengo già la vostra obiezione. È ovvio che tutto questo presuppone una operazione che non sarà quasi mai possibile fare davvero, e cioè tracciare la linea intorno ai buoni o ai cattivi in maniera precisa. Ci sarà sempre qualcosa che vi sfugge, ci sarà sempre qualche soggetto del vostro universo che non siete sicuri. Ma lo metto proprio nei buoni o nei cattivi? Bersani, dove lo metto? Bersani, il segretario del PD. Nei buoni o negativi? O nei cretini? Potrebbe essere un'altra ipotesi. Vendola, dove lo metto Vendola? Nei buoni o negativi? Lo so, tutti. Lo sapevo già, mi toccava la classe di Vendoliani. Vedi, non so che ci cazzo andare a votare, se non avete primarie, se quattro candidati, uno peggio dell'altro, cazzo, eh. Quindi è chiaro che c'è, ma adesso ci torneremo su quello, c'è una concezione nel programma, leggerete una righina che vi sarà incomprensibile forse, che comincia a essere considerato adesso, è critica alla concezione denotativa del linguaggio, perché c'è una concezione denotativa, c'è una concezione che pretenderebbe che queste linee siano sempre belle, precise, tracciabili, eccetera, eccetera. Non è sempre così. Va bene, però questo non. Di questo bisogna cercare di fare, come dire, tesoro, non di prenderlo semplicemente come una carenza del sistema. Forse non è solo una carenza del sistema, forse è una. È qualcosa. Però adesso sorvoliamo su questa cosa. Supponiamo per un momento e per amore di verità, insomma, per fare avanti la discussione, che sia temporaneamente possibile tracciare il circolo in out, dentro, fuori. Comunque, questa è la concezione estensionale dei, diciamo, concetti. Nella logica predicativa, ogni termine denota l'estensione del predicato o del concetto corrispondente, denota. La connotazione invece è una descrizione, allora, diciamo, questo è un punto di vista quantitativo, elenco tutti gli individui del mio universo che ho presupposto, si presuppone sempre di parlare di qualche cosa, quindi di una collezione di oggetti o di soggetti, di persone o di animali o di cose, eccetera. Questa è una questione di quantità. Posso sempre dire quali dei miei individui godono e quali non godono di questa proprietà, di quali è predicabile e di quali non è predicabile quel concetto. Il punto di vista connotativo invece, quando io connoto un termine, mi riferisco alla sua intenzione, cioè alla descrizione qualitativa, in qualche maniera qua c'è la qualità. Io descrivo, diciamo, determino il concetto di buono tramite una descrizione. Quindi un insieme delle descrizioni? No, perché è una descrizione so, cioè sì. Una decisione che può avere diversi tratti, ma tu la devi prendere come unica, suppone che sia una buona, dice, definisco persona buona quella persona che farebbe agli altri esattamente ciò che fa a se stesso. Siamo messi male perché ovviamente il masochista ci manda a culo questa definizione, ma pazienza, supponiamo che il masochista, bisogna sempre supporre che qualche cosa, perché sennò la logica è sempre dietro con le sue trappole, che ci, però insomma, diciamo, supponiamo che. La cosa importante è, voi diciamo, avete insomma capito, adesso, dato che vi ho fatto questa cosa, secondo voi l'obiezione, cioè il paradosso del barbiere, come in parte anche quello del giorno, ma quello concentrato su quello del barbiere, cioè il paradosso che determinò il crollo del programma logicista, del programma di fondazione della matematica sulla logica, ha a che fare con un punto di vista estensionale o intenzionale? Il barbiere del villaggio rade tutti coloro che non si radono da soli. Il barbiere del villaggio si rade? Estensionale. Certamente, estensionale. Vuol dire che ogni volta che io ho un universo di, diciamo, discorso, devo fare molta cautela e molta attenzione a costruire non gli insiemi di oggetti. Gli insiemi di oggetti è facile costruirli, le persone buone, poi non so se sono buone davvero o no, ma supponiamo che io abbia davvero un bel criterio per dire questo è buono, questo no. Una volta che il criterio ce l'ho, è facile mettere le persone, anche se fossero miliardi di miliardi. Gli stronzi e il nostro, appunto, basta, chiuso. Cioè, questo non mi dà problemi. Il problema sorge, ho cancellato teoria, metateoria, ma voi cercate di ricordarlo, sorge quando dal livello teorico passo a quello metateorico, quando dagli insiemi di individui passo agli insiemi di insiemi, posso fare gli insiemi di insiemi, no? Invece di dire gli insiemi di individui, dico l'insieme di tutti i concetti, faccio l'insieme dei concetti definibili con meno di 15 parole. È un insieme, giusto? Che fa parte di un insieme. l'insieme delle persone che non si radono da sole sembra un insieme di singoli personaggi, però se ci pensate bene è già un insieme di proprietà. L'insieme delle persone che hanno la proprietà che non si radono da sole. Ho fatto già un passaggio, non ho detto l'insieme di quelli che hanno, l'insieme di quelli che sono calvi, l'insieme di quelli che hanno i capelli neri, l'insieme di quelli alti meno di 1,72 m. L'insieme di coloro che non si radono da soli, quindi lì c'è già una, ho già fatto un piccolo saltino che sta al di là, sto già operando, è a questo livello, a livello degli insiemi di insiemi, o dei predicati di predicati, o dei concetti di concetti, che comincia il casino. E il vero passo falso, la vera violazione che Frege poi ammise di avere, di avere compiuto, facendo questa sua, come dire, fondazione, è quella di avere ammesso ingenuamente, candidamente, l'esistenza di un insieme di tutti gli insiemi e di averci lavorato sopra come se fosse un insieme normale. Se voi lavorate, se voi fate una roba di questo genere, cioè se voi costruite un insieme di tutti gli insiemi, anche di una zona limitata, a meno che non abbiate a che fare con un insieme finito di cose. Se voi prendete l'insieme degli abitanti di Milano e non ci fate sopra tante filosofie, con le abitanti di Milano potete fare quello che vi pare, di Milano, di Rio de Janeiro, di grande quanto volete, ma un numero finito, milioni, milioni, ma un numero finito. Il problema è che tutte queste robe qua, tutta questa logica qua serve, se è applicabile almeno alla geometria e alla aritmetica elementare. Insomma, l'aritmetica è così facile, sarà facile. È vero che sono solo numeri 1, 2, 3, 4, 5, ma l'aritmetica ha questa caratteristica, che Werther ha come oggetto di studio un insieme infinito. È un insieme discreto, certo, non c'è uno sembra facilissimo, ma è un insieme infinito. Ovviamente è considerato un insieme infinito come se fosse finito. Esatto, un insieme infinito non si può considerare come se fosse finito. Cioè, ha bisogno di una cautela, perché queste macchine non sono soggette a questo genere di paradossi? Perché loro non lo sanno che cos'è l'infinito. Un computer non lo sa che cos'è l'infinito. Se gli fate calcolare radice di 2 o pi greco, lui non calcola la vera radice di 2. Radice di 2 è un numero che ha una serie di decimali infinita come pi greco e indescrivibile, cioè non determinabile a priori. Dovete fare il calcolo, ogni volta siete in grado di farlo. Radice di 2, 1,414. Puntini, puntini, puntini, è un numero irrazionale, non c'è nessuna frazione che lo sa, c'è una frazione, faccio il caso, no. È un numero irrazionale, cioè un numero irrazionale è un numero decimale infinito e non periodico, quindi non c'è nessuna cifra che si ripete neanche molto molto lunga. Pi greco, peggio ancora, pi greco addirittura è un numero non solo che decimale infinito e non periodico, ma non è neanche collegabile con l'algebra elementare. Radice di 2 sì, perché radice di 2 fate l'equazione x quadro meno 2 uguale a 0 e radice di 2 è proprio il numero che vi risolve questa equazione. Quindi perlomeno radice di 2, dicono i matematici, è un numero algebrico, cioè deriva dall'algebra. Pi greco non deriva dall'algebra, pi greco è il rapporto tra la circonferenza, la lunghezza della circonferenza rettificata, si diceva una volta, e il diametro della circonferenza stessa, pi greco è uguale a 3,14, eccetera, eccetera, ma pi greco non è ricavabile da alcuna equazione semplice algebrica come quella di sopra. Quindi questo genere di numeri, che si chiamano irrazionali, e addirittura quelli come pi greco trascendenti, come opposti ad algebrici, non c'entra niente Gesù Cristo, Dio, la trascendenza divina, siamo trascendenti in un altro senso, perché non sono algebrici. Questi numeri sono difficili, questi numeri sono realmente infiniti. Ma questa macchina non ve li tratterà mai come se fossero infiniti, perché lei a priori decide, vado avanti, sino al quinto, decimo, centesimo, ventesimo, centesimo decimale, ma mi fermo. Quindi se voi vi fermate al secondo decimale, radice 2 è 1,41, numero finito che trattate senza... Se vi fate al secondo decimale, pi greco è 3,14 come ci insegnano nelle scuole elementari, ma non è 3,14 perché dopo il 4 ce n'è un altro numero... Per gli scopi pratici, come per i nostri scopi pratici, non sono solo i computer che fanno così, anche il contabile nell'800, prima delle macchine, doveva a un certo punto per fare le somme se ne deve troncare, no? Ma concettualmente so che posso andare avanti. Bene, non è lecito trattare l'infinito come non è lecito trattare l'infinito come si tratta il finito, non è proprio lecito. È sbagliato, non è possibile. A meno che concettualmente io non mi pongo già più l'idea di volerlo trattare come a meno che non prenda delle cautele, e quindi per esempio nel campo degli insiemi infiniti io non posso introdurre la nozione di insieme di tutti gli insiemi ad un certo livello, non posso, o devo pormi dei limiti nel trattare questo concetto. Adesso questo sarebbe veramente complicato che vi spiegassi c'è un modo di sfuggire, come c'è il modo di sfuggire a... Dimmi. Una convenzione col lettore. Un insieme di regole procedurali, cioè Bertrand Russell, che non era uno stronzo, quando si è reso conto lui di aver combinato, cioè di essere quello che aveva intravisto, ha cercato di costruire una, come dire, teoria che ovviasse a questa cosa. È una teoria complicatissima, si chiama teoria dei tipi, nessuno più la usa, ma lui l'ha comunque costruita. Ad ogni passo successivo della costruzione da teoria a metà di questa teoria, lui ha posto delle restrizioni. Cioè, non si può trattare questo insieme qua con A, B, C, D, eccetera. Naturalmente queste, diciamo, restrizioni rendono lunghissime delle cose che senza restrizioni si farebbero in 4,48, quindi sono più sicure, ma non si... a questo punto, visto che diciamo ci siamo, finiamo, vi dico, e così arrivo, vi ho illustrato con qualcosina di troppo forse, ma non fa mai male, sono cose che poi nessuno diciamo racconta mai. Arriviamo sino al coronamento di tutta questa cosa, perché poco più di 30 anni dopo questa prima cosa che prende il nome in generale, questo dibattito, poi non solo tra Federati, ma tutto materiale, si prende il nome proprio di crisi dei fondamenti. Questo non vuol dire che la matematica sia fermata, evidentemente, è andata avanti, però vuol dire che da quel momento in poi tutti i matematici e i logici sono molto più cauti nel dire abbiamo risolto i problemi della fondazione. Sappiamo che i problemi di sappiamo noi che siamo venuti dopo, e cioè anche loro, che i problemi della fondazione non sono risolvibili, non sono, è arrivata una notizia ancora più radicalmente negativa da certi punti di vista, ed è arrivata esattamente nel 1932 ad opera di un signore erroneamente definito come tedesco, perché è un moravo, però insomma era suddito dell'impero austro-ungarico quando è nato, che si chiama Kurt Gödel. Kurt Gödel, uno dei più grandi logici di tutta la storia della logica, perché è arrivato a un risultato negativo, limitativo nei confronti della logica dell'aritmetica, ma molto importante, si è messo proprio dopo il 1910-12 a lavorare su quell'insieme di problemi aperto da Frege e messo in crisi dalla osservazione un po' impertinente, ma ahimè vera, di Russell. E quindi si è messo a indagare su due questioni, sulla questione della coerenza e sulla questione della completezza. La questione della coerenza è facilmente risolvibile, è facilmente spiegabile. è quella che vi ho, è quella a cui vi ho accennato prima. La questione della coerenza è quella che richiede a un sistema logico o formale di non essere troppo liberale, cioè di non consentire di dimostrare una asserzione e anche il suo opposto. Se all'interno di un sistema logico o formale è possibile dimostrare tanto una asserzione quanto la sua opposta, tanto un teorema quanto la sua negazione, questo evidentemente non è un sistema coerente, è un sistema incoerente. E di un sistema incoerente ovviamente non sappiamo che farcene, non serve un cazzo dal punto di vista logico, non si spiega, non ci garantisce sulla veridicità, perlomeno in relazione agli assiomi di dove vogliamo arrivare. Il problema della coerenza è più semplice, il problema della completezza è un po' più complicato, perché intanto richiede che si abbiano presenti quali sono due diversi livelli del discorso dei sistemi logici. Quando dico sistemi logici, in realtà sto parlando di sistemi che fanno parte della matematica, quindi o di teorie matematiche o di teorie metamatematiche, che però siano costruite più o meno come la matematica. Ma entro certi limiti uno può richiedere molte delle, può applicare molti dei concetti che applica ai sistemi logici anche alla struttura logica del linguaggio naturale. Anche il linguaggio naturale, che non è di per sé logico esattamente come la teoria matematica, però dietro di sé ha in qualche modo, no, una struttura logica, cioè una armatura di diciamo concetti eccetera, che per questa parte del linguaggio naturale possiamo dire che è utile solo per questa parte, non per altri, che è utile diciamo studiare più o meno, sapere cos'è questa questione dei principi formali. Oggi ho detto tutt'altre cose di quello che volevo dire, vedete un po', io faccio che non so, che non devo mai preparare la lezione, perché non... Allora, il problema della completezza ha a che fare con due diverse dimensioni in una teoria logica. La dimensione della sintassi e la dimensione della semantica. La dimensione, è chiaro che entrambe le dimensioni sono dimensioni linguistiche, però la dimensione sintattica è una dimensione, possiamo dire, intralinguistica, tutta interna al diciamo, linguaggio. La sintassi di un linguaggio ci dice quali sono le regole attraverso le quali posso combinare i simboli del linguaggio per ottenere delle frasi, diciamo, accettabili, sintatticamente corrette, grammaticali. La sintassi del linguaggio naturale, c'è una sintassi diversa per ogni lingua della Terra, l'italiano ha le sue regole, l'inglese ha le sue, il cinese ha le sue, il sasto c'aveva le sue, il latino le sue, il papuaso le sue, la lingua hopi le sue, tutte diversissime tra loro, ma sono tutte regi che mi dicono, per cui è possibile, per cui più o meno, spero di non avere detto oggi neppure trascinato dalla foga nessuna frase non sintattica, cioè anche parlando, chiacchierando, così spero di avere sempre rispettato queste leggi, quindi ho messo insieme le parole come vanno messe insieme. Se io violo queste leggi mi escono delle mostruosità. Occhio nella caronia detto mentre mangiato urca eccetera, non so più se ero in 15-9 sotto sarò. Questo insieme di cose è chiaramente un insieme di parole che violano le più elementari leggi sintattiche, e quindi anche chi ha una grande dimestichezza con la lingua italiana giustamente può telefonare al 113 per dire caronia è impazzita. Nello stesso modo anche nei linguaggi formali c'è una sintassi che mi dice se devo costruire un, diciamo, teorema, se il mio alfabeto è fatto di certi simboli che indicano certe variabili, per esempio A, B, C, D, eccetera, e questa freccetta è l'equivalente linguistico del se allora, per esempio, io ho una sintassi che mi dice guarda che prima della freccia ci deve essere un simbolo che denota una proposizione e dopo la freccia un altro simbolo che denota una proposizione. Per cui se io scrivo per esempio freccia AB, so già che ho questa è sintattica, questa è buono, questo è non sintattico, è non buono, quindi ovvio là. Quindi la, diciamo, sintassi è semplice. La sintassi quindi è semplicemente il livello di una teoria logica che indica il modo in cui, diciamo, che impone delle regole di buon comportamento ai simboli linguistici e basta, non gliene frega niente di cosa vogliono dire. Ovviamente il livello semantico sarà quello in cui si prende in esame il rapporto tra linguaggio e mondo. Cioè che cosa, diciamo, la semantica di un linguaggio naturale è, per esempio, a livello, diciamo, lessicale, il vocabolario. Il vocabolario è uno strumento semantico, perché mi dice che cosa significano le parole, giusto o no? Dovrebbe dirmi questo. Mentre a livello sintattico io posso, dico solo, se però, per esempio, ci sono delle parole che non vogliono dire nulla, il livello sintattico ignorato, vabbè, non lo so, cazzi tuoi, perché hai usato questa parola, però dal punto di vista sintattico, diciamo, funziona. L'irumbadumba è meglio gestibile all'interno di una classe di 25 elementi. La frase semanticamente può essere dubbia, perché voi non sapete cosa sia, e neanche io, questo irundabunda, non ha a che fare con quell'altra roba di cui si è parlato molto se stesso negli ultimi tempi, credo. Però sa perché mi è uscita fuori una parolina di questo tipo. Quindi dal punto di vista sintattico, se io non ho violato le regole della sintassi, la mia frase funziona perfettamente. A livello logico, che cosa vuol dire, che cos'è la sintassi di un sistema logico? L'abbiamo detto, è chiaro, sono le leggi di composizione dei simboli. Che cos'è la semantica di un sistema logico? Un sistema logico è fatto in modo tale che, come dire, si suppone che parli di qualche cosa, ma non si sa a priori di che cosa parli. Se è un sistema puramente logico, se è un sistema formale come la aritmetica, per esempio, come la geometria di Euclide, allora si sa già di che cosa parla, allora vuol dire che ha una semantica specifica. La semantica della geometria di Euclide è quel livello che accoppia la forma dei, diciamo, teoremi con i concetti specifici, punto, linea, superficie. Questi sono concetti che io penso di sapere o so che cosa vogliono dire, attenzione, di cui penso di conoscere il significato. Attenzione, questo, quando dico mondo, il termine mondo può creare equivoci e ambiguità, perché non vuol dire sempre qualcosa all'esterno del discorso. Quando io interpreto la geometria di Euclide, non ho bisogno di pensare che le linee e le superfici siano degli oggetti materiali. Sono degli oggetti anche mentali, delle astrazioni, dei concetti, però so che cosa significano, so come si comportano. Ecco, allora, mentre il livello sintattico della geometria euclidea si limita a controllare che i simboli siano messi, i simboli verbali o non verbali, siano messi insieme in maniera corretta, la semantica si incaricherà di vedere che cosa significa. Per esempio, se io il teorema di Pitagora c'ha una sintassi, dice se un certo triangolo ha un angolo retto, allora i quadrati costruiti su due lati minori equivalgono come superficie al quadrato costruito sul lato maggiore. La sintassi è il se allora messo giusto, le virgole messe giuste, eccetera, eccetera. La semantica, voi visualizzate, ci avete in testa anche se non lo disegnate, il disegnino del triangolo rettangolo, dei quattro quadrati, e la vostra intuizione che l'area dei due quadrati sui cateti equivale a quella. Allora, questa è la semantica, no? Non implica che ci sia davvero nel mondo un triangolo rettangolo, anche se voi siete nati in un mondo sferico, che non è piano, mettiamo, come questo. Il teorema di Pitagora è comunque concepibile e vale in quel mondo che a questo punto avete concepito voi, no? Se noi viviamo in un mondo sferico non c'è il mondo così, no? È un mondo diverso quello della geometria di Euclide, però è, diciamo, concepibile. Quindi non è che semantica significa sempre rapporti col mondo esterno, significa rapporti con una funzione significante, quindi con un, diciamo, significato che potete avergli dato pure voi. Allora, se un teorema a livello sintattico sarà dimostrabile, cioè ci sarà una catena di ragionamenti che da un certo insieme di ipotesi A, B, C, eccetera, fate una serie di, vi porta a Z. Z è il vostro teorema perché lo avete dimostrato, perché avete fatto una serie di passaggi sintatticamente giusti. La dimostrabilità è un teorema, è un, diciamo, concetto sintattico, riguarda il buon uso degli strumenti sintattici, cioè del modo di mettere in ordine giustamente le... A livello semantico, un teorema sarà vero o falso? Vero, se l'avete dimostrato bene, falso. Perché un sistema logico non va bene che sia incoerente? Perché vi toglie l'isomorfismo tra dimostrabilità e verità, cioè la corrispondenza tra dimostrabilità e verità. È ovvio che voi volete che tutto ciò che è dimostrabile è vero, perché sennò, se il vostro sistema è incoerente, vi consente di dimostrare tanto una affermazione quanto la sua negazione, ma non possono essere vere entrambe. Se una è vera, l'altra sarà falsa e viceversa. Quindi nei sistemi coerenti c'è qualcosa di dimostrabile che non è vero, e questo non è buono. Ma anche una volta che il mio sistema è coerente, io che cosa vorrei volere? Che cosa vorrei poter volere? Di cosa vorrei poter disporre? Del fatto che il mio procedimento, il mio dispositivo di dimostrabilità mi dia tutte le proposizioni vere, tutti i teoremi veri. Che non ci sia qualche teorema che è vero e che io però non lo posso trovare dimostrandolo. Per quanto ne so io, alcuni teoremi vengono dimostrati negando l'opposto. Non vuol dire un cazzo, il modo in cui li si dimostri sono fatti tuoi, no? Dimostrazione diretta, per assurdo, non vuol dire nulla quello, però alla fine li hai dimostrati, la cosa importante è che sono dimostrati. Sarebbe desiderabile che il vostro sistema logico fosse non solo sintatticamente completo, certo che può, che non ci può, ma fosse completo anche semanticamente, cioè che vi dice, ok, c'è qualcosa di vero? Sicuramente ci posso arrivare dimostrandolo. Se esiste qualche proposizione vera, qualche, diciamo, teorema che sia vero, che abbia un'interpretazione semantica vera, che valga nel mondo di cui parlate, anche se fosse solo un mondo mentale, quindi che sia semanticamente vero, ma che voi non potete ricavare dalla dimostrazione, cioè che è indimostrabile, il vostro, come dire, sistema è incompleto. No, non è incoerente, è incompleto. È meno grave che essere incoerente, però accidentaccio è sempre una cosa noiosetta, perché vuol dire che io, se... Come dire, la dimostrabilità è una macchina è praticamente meccanizzabile. Se voi mettete dentro a un computer le reti dei consilodismi e gli date le diciamo, definizioni giuste dei concetti diciamo, di base di Euclide e degli assiomi, voi siete in grado di ricavare tutti i concetti veri, tutti i concetti usati sintatticamente dimostrabili. È una macchina la come dire, dimostrazione. Una volta che avete cominciato, storicamente non è stato così, ci è voluta l'inventività umana, ma una volta che abbiamo messo a punto le cose, diciamo, il livello sintattico con un insieme finito di simboli è una macchina, è automatizzabile, è algoritmizzabile, potete scrivere un algoritmo, una descrizione, riga per riga, passo per passo, questo si fa così, si fa così, si fa così, siete a posto. Se il teorema è incompleto, la macchina è debole. La macchina non vi dà tutto quello che vi servirebbe. È chiara l'idea? Bene, il signor Gödel nel 1931-32, non mi ricordo, se controllate su Wikipedia lo trovate giusto. Il signor Kurt Gödel dimostrò esattamente questo, la incompletezza semantica dei sistemi formali in grado di trattare la aritmetica. In grado di trattare la aritmetica, cioè dicono i logici sufficientemente potenti da essere in grado di parlare di almeno di un insieme infinito di oggetti, per quanto semplice come quello dei numeri naturali. Se voi non chiedete questa cosa, se voi non date al vostro sistema logico la potenza, la capacità di trattare insiemi infiniti, allora avete la completezza. I sistemi logici che trattano di insiemi finiti sono tutti completi. Quando non c'è di mezzo l'infinito, siamo tranquilli. In sostanza, vabbè, perché la geometria delle cose... La geometria parla di cose infinite, la geometria consente di dividere all'infinito un segmento, non c'è mai un punto intermedio definitivo tra due punti per quanto siano vicini, ce n'è sempre infiniti uno e l'altro. In sostanza in ambito matematico cioè tutti quanti i procedimenti di dimostrazione sono macchine deboli. Macchine deboli. Perché? Perché l'oggetto è troppo potente, è troppo grosso. Se tu volessi fare, se tu fai la matematica dell'orologio, in cui 0 più 3, 12 più 1, 12, oppure 0, in cui 12 è uguale a, insomma, 0, quella è una matematica finita. Ah, okay. Sono 12 sì, 12 uguale a 3. Le posizioni sono infinite, ma la struttura matematica è già finita, ha a che fare con 12 numeri o con quelli che vuoi nelle cose intermedie, ma sono, quella matematica lì è sicuramente completa, quella aritmetica lì, perché è un sistema finito, ma i sistemi finiti sono banali. La matematica dell'orologio è interessante in matematica, non per il sistema che è, ma per da che cosa deriva, perché tu puoi far derivare la matematica dell'orologio da classi di equivalenza di numeri. E i numeri naturali, cioè dai resti delle varie divisioni, insomma in pratica dividi uno per l'altro, se il resto lo assegni a quella classe. La matematica dell'orologio è interessante perché gli elementi della matematica hanno infiniti, sono fatti di infiniti oggetti, sono infiniti numeri che sono tutti nella categoria dello 0 o del 12, dell'1, del 2, del 3, diciamo dell'11. Ma la matematica dell'orologio in quanto tale è banale, è stupida, nel senso che la fai le robe e hai già finito, l'hai descritta in 448. La aritmetica dell'insieme infinito di numeri è molto più interessante, ma è intrinsecamente incompleta. Perché? Perché parla di cose troppo grosse. È chiaro? L'orologio è una semplificazione di un insieme complesso. Certo, la semplificazione va bene, funziona benissimo. Perché hai ridotto l'infinito al, come dire, finito. Però più di tanto non puoi dire. i maligni potrebbero dire che la matematica dell'orologio è come l'eterno ritorno di Nietzsche. In realtà non è vero, no, perché Nietzsche non ha mai detto che le cose tornano esattamente uguali, più o meno tornano uguali, ma c'è sempre la più piccola variazione. Nella torre no, la zeta torna lì dopo 12 ore, sta lì e non ci sono Cristi. Quindi il teorema di incompletezza di Gödel, teorema di incompletezza semantica, in realtà sono due i teoremi, adesso io vi ho letto il secondo, che è quello più importante, teorema di incompletezza semantica. Io scrivo 32, può anche essere 31, perché adesso non mi ricordo giusto. Quando siete a casa, volete controllare, controllate, mettete l'anno giusto. Il teorema di incompletezza di Gödel rappresenta uno dei vertici della conoscenza matematica, perché ne segna il limite, la conoscenza matematica è logica, perché certamente segna diciamo, il limite. Però all'interno di questo limite, diciamo, detto in altri termini, segna la definitiva, cioè dopo quel teorema è impossibile porsi più alcun problema di autofondazione della matematica. Perché se il vostro sistema è abbastanza potente da farvi fare delle cose significative, è infondabile. Il teorema di Gödel significa che la matematica è infondabile, cioè è senza fondamento. Non c'è fondamento possibile alla matematica, che non sia quello del barone di Munchausen che si tira su da solo, ma quello è banale, stupido e non ci serve un tubo, insomma. Diciamo, c'è una debolezza intrinseca di questi sistemi. Si paga sul lato della forza logica quello che si acquista sul lato della potenza argomentativa, cioè della possibilità di arrivare. Ora finisco, perché so che vi ho messo a dura prova pure a farvi un'ora, pure a farvi 3 ore di lezione di logica matematica, quindi matematica, adesso non pensavo che questa sia logica matematica, questa è logica matematica spiegata, però diciamo, comunque sia i concetti, diciamo, avete tutta la mia comprensione se il cervello vi fuma un suo pochino, però fatemi solo arrivare a quello da cui sono, perché io sono partito dicendo che voi stavate discutendo con la vostra mamma, qualcuna di voi signorine in particolare, questo è l'esempio che ho fatto, e che stavate abbozzando una metateoria sulla teoria della mamma, vero? Ricordate che questo era il punto. Bene. Allora adesso spero che capirete perché vi ho fatto questo lungo coso, perché qui avete una teoria che usa un certo linguaggio e voi costruite una metateoria che è un commento, una critica, un qualche cosa che parla della teoria, che ha come oggetto la teoria, e usate un metalinguaggio. Ora il vostro problema qual è? È che la vostra teoria è diversa dalla metateoria, mentre il metalinguaggio che usate è esattamente uguale a quello da cui siete partiti. Perché è sempre il linguaggio naturale, perché il linguaggio naturale ha una potenza tale che può fare sia da linguaggio che da metalinguaggio a qualunque livello volete. Ma questa è una situazione difficile, perché ci crea dei problemi, perché noi non sappiamo mai se per esempio io devo fare una critica e devo risolvere un problema che a questo livello si presentava per qualche sfiga intrinseca, per qualche limite intrinseco di questo linguaggio, non lo potrò mai correggere davvero, perché mentre nella scala di nella scala temporaneamente possibilmente infinita di teorie e di metateorie posso andare fino all'infinito, e ogni volta ho un insieme di problemi differente a ogni passaggio, diciamo, che faccio, ma se lo strumento che ho, linguistico, per parlare di questa successione è sempre lo stesso, o è impossibile che io mi renda conto davvero dei limiti di questo linguaggio, perché non ho un vero metalinguaggio diverso da questo per poterlo, diciamo, criticare. No, no, no. Certo che la cosa più semplice è stata già tentata, è stata quella, per esempio, di utilizzare come metalinguaggio a un primo, diciamo, livello di critica del linguaggio naturale un qualunque linguaggio formalizzato. È per esempio uno dei linguaggi dei sistemi logici, dei sistemi formali di cui abbiamo parlato per tutt'oggi. Ma dove sta il punto debole di questa diciamo, concezione? Sta nel fatto che il linguaggio logico, per esempio, del calcolo degli enunciati o del calcolo dei predicati, di qualunque sistema della logica, come dire, formale, è perfetto, è ottimo dal punto di vista della struttura logica del linguaggio naturale, ma su tutti gli altri aspetti del linguaggio naturale lo impoverisce, non sa nulla, non può dire nulla, non mi può dire nulla della ricchezza espressiva del linguaggio naturale. Non solo non può dire nulla dell'intonazione linguistica con cui uno parla, con cui uno fa le cose, o peggio ancora delle facce che fa come muove le mani nel momento in cui parla, ma anche semplicemente all'interno del con linguaggio non mi sa dire nulla dell'inventività linguistica, del fatto di mettere una parola invece che un'altra, l'uso di una costruzione invece che un'altra, non mi dice niente, è cieco. Lo studio logico del linguaggio, quindi c'ho un bel dire che posso usare quello come metalinguaggio, ma non mi serve a un tubo per capire gli eventuali limiti o l'eventuale ricchezza o la migliorabilità o la potenza espressiva reale del linguaggio naturale. Il linguaggio logico è ridicolmente povero nei confronti del linguaggio naturale. Spero di non dover perdere neanche mezza parola per convincermi di questo, cioè soltanto il nerd più abbietto potrebbe pensare che il linguaggio logico può neanche lontanamente competere con il linguaggio naturale, proprio non esiste, non c'è partita, non c'è gioco proprio, insomma. E quindi è ovvio che l'utilizzo. Allora, quale altro metalinguaggio uso? Un linguaggio marziano, che non so, il linguaggio fantastico, la lingua degli elfi di Tolkien, che cazzo, cioè non esiste. Cosa? Ma un linguaggio di più. Cioè, magari non verbale. Che sono i linguaggi non verbali? Nel senso, sto spiegando, cioè mi amo, mi sta rompendo, a un certo punto mi stanco di continuare a parlare di questa cosa, alzo gli occhi al cielo e me ne vado. Non è che mi sembra un linguaggio. Tesoro, il tuo alzare gli occhi al cielo, la tua abbracciare, eccetera, non è una reazione linguistica, non c'entra niente con il linguaggio, o è legato con il linguaggio, perché presuppone anche dentro il linguaggio ci può essere anche una assenza di, diciamo, espressione linguistica e quelli che i linguisti chiamano tratti sovrasegmentali. E anche l'abbraccio, perché tu la puoi abbracciare stando zitta, oppure puoi abbracciare dicendo ma quanto ti voglio bene, o ma quanto sei rompicoglioni, nel modo che vuoi. E quando tu abbracci la tua mamma o qualsiasi altra persona, in qualche maniera questo abbraccio è sempre linguistico, perché presuppone, okay, anche se non parli, avresti potuto parlare, presuppone. Il linguaggio c'ha questo di bello, brutto, non lo so, ma tenetelo sempre presente, che è difficile liberarsene. Da una volta che c'è potenzialmente, e su questo aveva visto bene Barrows, aveva visto bene, language is a virus anche per questo, perché agisce la sua logica in senso non della logica formale, la sua modalità, il suo modo di vivere, come forma di vita, agisce anche quando non si manifesta esplicitamente. Una volta che siamo animali linguistici, lo siamo per tutta la vita e in tutto il tempo, in tutte le nostre manifestazioni, anche se non parliamo, anche se non produciamo linguaggio. Il nostro linguaggio, anche se c'è qualcosa forse che è definibile come pensiero o come contenuto mentale e che non è totalmente linguistico, ma l'esistenza del linguaggio ci condiziona anche nel come noi ci rapportiamo, detto in altri termini, una volta che abbiamo imparato a parlare è impossibile pensare senza linguaggio. Noi pensiamo sempre in qualche maniera in modo linguistico. È vero che il linguaggio è, e ne parleremo la volta prossima, ci arriverò davvero a parlare più specificamente dei rapporti linguaggio-mondo. Allora, è vero che il linguaggio è sempre povero rispetto al mondo, ma la sua povertà da un lato implica anche una eccedenza dall'altro. C'è un'eccedenza tra linguaggio e mondo che è reciproca. C'è sempre più mondo di quanto il linguaggio non possa descrivere, ma c'è sempre più mondi descrivibili, linguisticamente creabili, di quelli che non siano esattamente il mondo reale. Quindi non c'è mai una coincidenza perfetta tra linguaggio e mondo, che è quello invece che queste macchine presuppongono e che è quello che presuppone anche, e spero di avere l'occasione di dire altre cose, che è quello che presuppone anche il sistema capitalistico contemporaneo, che è un sistema capitalistico molto basato sul linguaggio e che quindi sembrerebbe metterci in trappola, perché utilizza anche il linguaggio, dice, ma come, il linguaggio era l'unica cosa che avevamo, eccetera. In realtà, diciamo, la messa al lavoro del linguaggio, l'inserzione delle performance linguistiche dentro il processo di valorizzazione, possono avvenire soltanto a prezzo di una semplificazione radicale del linguaggio, di un suo tagliarne via tutti gli aspetti eccedenti. E questa è una cosa più complicata e ci torneremo dopo. Direi che però ti posso lasciare andare.